si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! E allora, questa si può fare, ma io non sono Alessio Maurizi. Così pare. Voi non mi vedete in radio, ma sono biondo e lui è moro. È riccio, io ho i capelli lisci. Io sono Alessandro Milan e lui è Alessio Maurizi e in maniera, mi scuso, cari amici, ma oggi sono qua e cercherò di non farvi pentire di avere sostituito quel debosciato, lo diciamo, di Alessio Maurizi, debosciato, che domani e domenica sarà qua, vero che sarai qua, vero che ci ascolti, vero che sarai qua, comunque eccoci qua. Saluto Giorgino De Luca, che vedo in redazione assolutamente tranquillo. Beato lui, è tranquillo per il fatto che sia io oggi qua a condurre Si può fare. C'è anche Carlo Gabardini, è arrivato, dopo lo sentiremo. E c'è Filippo Aureggi in regia. E allora, che dire, siamo tutti pronti, la squadra è questa, stiamo insieme fino alle 10. È sabato, io in genere il venerdì tuito, è venerdì! Ieri mi hanno detto, no, guarda, devi venire a lavorare anche il sabato, oggi ho scritto è sabato, vabbè. Iniziamo, dai, da che cosa? Ci saranno tanti temi che tratteremo, ma non li voglio ricordare perché ne parleremo più avanti anche con Carlo. E allora voglio iniziare subito da che cosa? La lettura dei giornali, la rassegna stampa. Ma sì, dai, andiamo a leggere e vedere che dicono i giornali oggi. Allora, è novembre, è sabato 1 novembre, e allora andiamo subito a leggere i titoli dei giornali, a cominciare dal Sole 24 Ore, che apre su cosa? Tokyo che spinge le borse, euro sotto quota 1,25, mentre la maggior parte delle aperture dei giornali sono dedicate ai verbali, i verbali dell'udienza di Giorgio Napolitano, capo dello Stato. Sapete che la procura di Palermo è andata in trasferta al Quirinale per ascoltarlo, e allora eccoci qua, sono finalmente usciti i verbali attesi da molti. Per il Corriere della Sera l'apertura è "c'era un piano per destabilizzare", mentre per Repubblica "mafia i verbali di Napolitano, ecco la mia verità". Ci sono poi altri titoli dedicati a questo, come La Stampa che apre con "Napolitano, ecco i verbali", mentre Il Messaggero "Ciampi mi disse temo il golpe". Sono ovviamente tutte frasi estrapolate dall'udienza di Giorgio Napolitano. L'altra notizia che prende le prime pagine dei giornali è l'assoluzione per tutti gli imputati nella morte di Stefano Cucchi, che in appello sono stati appunto tutti assolti, medici, infermieri. Il Fatto Quotidiano, che 5 anni fa lanciò questa campagna per cercare i responsabili della morte di Stefano Cucchi, rimette quella foto che ha fatto ormai il giro di tutta Italia, anche del mondo, nel web, di Stefano Cucchi morto, livido in volto, e il titolo del Fatto Quotidiano di prima pagina è "A ridurlo così non è stato nessuno". Questo è anche il titolo del Manifesto in prima pagina, "Nessuno è stato", solo che stato ha la parola S, come il nostro stato. E così anche "Avvenire, Stefano è morto, ma giustizia non c'è", questo è il titolo di prima pagina. Le aperture invece di Libero e Il Giornale sono di diverso stampo. Libero titola su "Renzi si arrende a Landini, torna l'acciaio di Stato", mentre Il Giornale "La truffa dei rifugiati, uno su due è finto". Queste un po' le aperture. Allora, come detto, se vogliamo dare spazio alle notizie, in primo piano ci sono i verbali che trovate su tutti i giornali della deposizione del capo dello Stato. Per esempio il Corriere lo mette proprio a pagina 2 e 3, poi commenti a pagina 4 e 5. C'è il verbale che inizia proprio con le generalità che Giorgio Napolitano ha dovuto declinare. "Nato a Napoli, 29 giugno 1925, inizia così l'udienza di fronte ai PM palermitani. Napolitano e il ricatto della mafia, il bersaglio era il governo". Per tutti i giornali l'aspetto fondamentale riguardante questa testimonianza è il passaggio delle bombe del 93, quando Napolitano, richiesto a raccontare il momento storico, racconta della valutazione comune delle autorità istituzionali e si trattava di nuovi sussulti di una strategia stragista dell'ala più aggressiva della mafia. Si parlava in modo particolare dei corleonesi e in realtà quegli attentati, che poi colpirono edifici di particolare valore religioso, artistico e così via, si susseguirono secondo una logica che apparve unica e incalzante per mettere i pubblici poteri di fronte a degli out-out, perché questi out-out potessero avere pur per sbocco una richiesta di alleggerimento delle misure di custodia cautelare dei mafiosi, o potessero avere per sbocco la destabilizzazione politico-istituzionale del paese. Naturalmente tutto ciò era ed è materia opinabile. Questo è dunque il passaggio forse più interessante. Le pressioni su tutto il sistema, ricorda anche il blackout che ci fu quella stessa notte per qualche ora a Palazzo Chigi, non a Montecitorio, a Palazzo Madama, ma a Palazzo Chigi, racconta Napolitano, perché in quel momento il bersaglio era il governo e di conseguenza la sede delle decisioni da prendere era Palazzo Chigi. Certo, ci si interroga da giorni sulla utilità delle dichiarazioni rese da Napolitano rispetto a quello che già si sapeva o si prevedeva, per esempio sulla frase, sulla famosa lettera del suo ex consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, che parlava di indicibili accordi. Napolitano non dice nulla di fatto in questi verbali rispetto a questi indicibili accordi, dice non ne sapevo nulla. Comunque la notizia ovviamente è l'apertura per molti, tutti i tormenti del Presidente, per D'Ambrosio temetti il dramma, è anche il titolo dell'articolo di Attilio Bolzoni che trovate a pagina 9 di Repubblica. Se volete però la notizia politica del giorno è la nomina del ministro degli esteri, da qualcuno criticata, perché alla fine, sapete, Renzi voleva una scelta di genere, una donna, Napolitano chiedeva un uomo d'esperienza, alla fine si è mediato con la scelta di Paolo Gentiloni. A Gentiloni la guida della Farnesina, tra l'altro il Corriere della Sera fa sapere che Renzi aveva il nome di Paolo Gentiloni in testa da qualche giorno. In realtà si pensava, e poteva essere la scelta migliore certamente per lui che ci sperava, nella promozione del viceministro Lapo Pistelli, che devo dire, nonostante i complimenti di rito, il buon augurio di buon lavoro a Paolo Gentiloni, non è che l'abbia presa benissimo. Questo almeno racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica, a pagina 10, eccolo qui Pistelli. Se masticare amaro facesse curriculum. Certo che sono amareggiato, accidenti, potete immaginarlo. E dice questa frase, se masticare amaro facesse curriculum avrei fatto una grande carriera. Eccola qui la delusione. Ho sorriso per tutto il giorno, sono sereno, però ora, proprio stasera, è disumano tornare su questa storia. Ora, racconta Repubblica, Lapo Pistelli medita addirittura le dimissioni da vice ministro degli esteri non promosso. Mi ha detto Renzi grandi appelli alla responsabilità, mi ha chiesto di stare dove sto, messaggi conditi da grande affetto, ma non è da questo che dipende la mia decisione. Vabbè, comunque invece Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli esteri. Si racconta sul Corriere della Sera che è il nuovo puntello messo al governo da Rutelli e i rutelliani, ormai è una truppa, quelli della ex Margherita, davvero nutrita. Pistelli per l'appunto, Giacomelli sottosegretario, Reggi sottosegretario poi al Demanio, Gozzi che è andato con una delega importante all'Europa, Baretta, Bobba e poi c'è soprattutto Filippo Sensi che è il portavoce di Matteo Renzi. Insomma, Rutelli gioisce dalle colonne del Corriere della Sera, pagina 9, quelli della mia scuola oggi sono ancora al vertice. Hanno capacità di fare squadra, realizzare cose, io però non mi pento di aver lasciato il PD. Non è certamente il governo Rutelli, dice lo stesso ex ministro, ex sindaco di Roma, sono amico di tutti loro, ministri e sottosegretari. Poi c'è anche Luca Lotti, ragazzo sveglio all'età di mio figlio, a Firenze era sempre con noi, ma non mi faccia fare la parte del fanatico, dice lo stesso Rutelli intervistato da Monica Guerzoni a pagina 9 del Corriere della Sera. Però certamente un altro punto a favore della Margherita. Questo per quel che riguarda la politica. Se vogliamo però tuffarci sulla cronaca, perché ci sono tante notizie, prima delle quali è proprio l'apertura per molti quotidiani, vale a dire la soluzione in appello per tutte le persone che erano imputate nel processo per la morte di Stefano Cucchi, romano, 31 anni, arrestato la notte del 15 ottobre 2009 in possesso di 20 grammi di stupefacenti, morì poi all'ospedale Pertini 7 giorni dopo. Non ci sono prove, nessun colpevole per la morte di Cucchi, assolti i medici. Il legale della famiglia parla di omertà mafiosa addirittura all'interno di questo processo, quindi accuse molto gravi. Beh, c'è la cronaca intanto di come è andata questa udienza d'appello, la potete trovare sui giornali, e poi c'è il pianto, la disperazione della madre che in maniera molto molto amara dice: beh, allora vuol dire che mio figlio è ancora vivo. C'è la rabbia della sorella Ilaria Cucchi, che è colei che ha portato anche mediaticamente in primo piano la battaglia. Nonostante il clima fosse cambiato, dice, intervistata da Repubblica, pagina 2, grazie al lavoro del procuratore generale sapevo quanti dubbi aveva la corte. E mentre l'avvocato mostrava le foto di mio fratello coi lividi in volto, pensavo che nessuno avrebbe più potuto negare l'evidenza. Comunque, dice, ora continuiamo ad andare avanti e chi canta vittoria deve solo vergognarsi. E poi non c'è solo lei, parla, ed è la prima volta, lo fa in un'intervista sia a Repubblica che al Messaggero, una delle persone che era imputata di questa morte, vale a dire il medico Stefania Corbi, medico internista al Sandro Pertini, che intervistata da Repubblica dice: io, medico, sono stata trattata come un aguzzino. Da noi ci sono situazioni che in un reparto normale non esistono. Per me lavorare con i detenuti è stata una scelta. Sono io a voler curare i detenuti. Ricordo Stefano Cucchi, certo, lo vidi il 18 e il 21 ottobre sera, poche ore prima che morisse. E com'era? Chiede Maria Elena Vincenzi di Repubblica. Era molto magro. Inutile dire che ci ho pensato giorno e notte di cosa morì. La verità è che non lo so. Il 21 insistetti per fargli una flebo. Lui non voleva, mi improvvise che l'avrebbe fatta la mattina dopo. Mai avrei pensato che non avrebbe superato la notte. E ancora dice: ma crede che sia stato picchiato? A pensarci adesso credo di sì. Sì, ma di che cosa è morto? Secondo me di una aritmia. Ma questa è solo una mia opinione e lascia il tempo che trova. Ovviamente ci sono le reazioni anche sdegnate, per esempio nei confronti di un sindacato di polizia. Il responsabile di questo sindacato è Gianni Tonelli, che è stato varie volte anche ospite di Radio 24, che sentite un po' cosa ha detto. Tutti assolti, come è giusto che sia. Se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute e conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze, senza che siano medici, infermieri o poliziotti ad essere puniti per le colpe non proprie. Questo Gianni Tonelli, responsabile del SAP, uno dei sindacati di polizia. C'è anche, se volete, l'amarezza di alcuni titoli come Il Fatto Quotidiano, che mette a pagina 3 le altre morti, da Federico Aldrovandi, Riccardo Rasmana, Aldo Bianzino, Giuseppe Uva, Michele Ferrulli, Riccardo Magherini, morti perché sono venuti in contatto con forze dell'ordine, in tutti i casi da accertare. Il titolo è: hanno morto questi ragazzi e sono impuniti. E se volete c'è anche la comunque chiosa, possiamo dire così, molto amara, sia di Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, pagina 3, Cucchi fu suicidio, o la satira molto cruda di Spinoza in prima pagina del Fatto: se ho capito come funziona, in Cassazione condanneranno Cucchi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua, sono sempre Alessandro Milan, che si è impossessato del microfono di Alessio Maurizi per questo sabato. Siamo alla lettura dei giornali. Vi ricordo che il Sole 24 Ore racconta come i disoccupati siano saliti al 12,6%, ma ci sono dei segnali positivi. Quali sono questi segnali? Li racconta Claudio Tucci a pagina 4. È vero che il tasso di disoccupazione è rimasto elevato al 12,6%, più 0,1 punti percentuali rispetto ad agosto, mentre la media europea è l'11,5%, ma gli inattivi cosiddetti, cioè le persone considerate scoraggiate, stanno iniziando a scendere in modo consistente, 132.000 persone in meno su agosto 2014, addirittura meno 309.000 sull'anno. Ciò spiega in parte l'aumento del numero di disoccupati. A settembre sono saliti di 48.000 unità, si tratta essenzialmente di donne, ma questo almeno dice anche il ministro Poletti, ministro del lavoro, in un'intervista a Repubblica, intervistato da Roberto Mania. Qualcosa si muove sui contratti a termine, è presto per poter parlare di inversione di tendenza nel mercato del lavoro, ma dice Poletti, tutti i dati si muovono nella stessa direzione, sono cresciuti gli occupati, 82.000 unità è un numero importante, sono cresciuti anche i disoccupati perché più persone si sono messe a cercare lavoro, infatti sono diminuiti appunto gli inattivi, ci vorrà del tempo, è una tendenza da consolidare, ma i segnali sono piuttosto univoci e positivi. Questo almeno dice il ministro del lavoro Poletti. Certo, segnali non positivi ci sono per una banca in particolare, Montepaschi, dopo che è stata arrivata la condanna con sentenza di primo grado, 3 anni e 6 mesi e 5 anni di interdizione ai pubblici uffici per l'ex presidente Giuseppe Mussari, l'ex direttore generale Antonio Vigni e l'ex direttore dell'area finanza Gianluca Baldassarri. Questo è il primo processo, ovviamente il primo grado, max inchiesta MPS. C'è il Fatto Quotidiano, per esempio, che va a raccontare anche la difficoltà di molti correntisti a Siena, alcuni dei quali dicono non mi fido più, svuoto il conto e cambio banca. Non è un timore, se volete, anche molto umano e molto comprensibile di molte persone che dicono, beh, sapete che c'è, io nel dubbio i soldi li tolgo. Vi volevo segnalare alcune cose di cronaca, una mi ha colpito e non penso ad altro da un po' di minuti. Ho coinvolto anche Giorgino De Luca, che mi ha guardato con facce esterrefatte. Gli ho detto, ma perché secondo te la figlia di Oscar Luigi Scalfaro ha la scorta? Filippa Oreggi, secondo te la perché? E viene immortalata pagina 2 del Quotidiano Nazionale, che da alcuni giorni sta facendo questa campagna sulle scorte italiane, cioè chi ha la scorta, chi ha diritto alla scorta, politici, autorità. Marianna Scalfaro, sotto protezione. Se un diritto è questione di famiglia, c'è anche tanto di foto del corazziere che bacia la mano, e vabbè, insomma, probabilmente all'epoca in cui il padre era presidente della Repubblica, ancora garantita la sorveglianza alla figlia dell'ex capo dello Stato. Pagina 2 del Quotidiano Nazionale. Perché? Ne avrà titolo se così è. E infatti c'è un'intervista anche a Irene Pivetti, che è presidente, ex presidente della Camera, e dice: io avevo chiesto la tutela minima e alla scorta si può dire di no, io per esempio vi ho rinunciato. Quanti sono coloro che hanno le scorte ancora in Italia e sono giustificate da che cosa? Il Quotidiano Nazionale oggi torna su questa vicenda, una vicenda che viene seguita da molte persone che si chiedono questo. Mentre invece politicamente mi ha colpito la scelta di Beppe Grillo, ricordate che aveva chiesto di versare 2.000 euro di bonifico a Genova per fare un'intervista? Beh, ci sono sia Radio Capital con il mitico Luca Bottura che lo ha fatto, e sia Anno Zero di Santoro, ma Beppe Grillo ha cambiato idea, ha restituito i soldi alle persone, a Radio Capital e ad Anno Zero, ha detto comunque verserò questi soldi per Genova, ma ho cambiato idea, l'iniziativa è sospesa, intervista negata. E vabbè, Beppe Grillo è così, ha cambiato idea. C'è tanto ovviamente sui giornali sulla questione dei migranti, perché è partita l'operazione Tritone, insomma, l'operazione europea per monitorare le frontiere a 30 miglia da terra. È un'operazione appunto europea, con però l'obbligo, rimane per l'Italia, essendo il paese di prossimità geografica, di assistere in prima persona i migranti che si buttano in mare per cercare di venire qui. Siamo al minuto conclusivo, allora vi voglio solo citare dai giornali, mi ha colpito il tormento di Mike Tyson, è un'intera pagina di Repubblica, pagina 21, Emanuela Audisio racconta come Mike Tyson abbia ammesso per la prima volta di avere subito violenza sessuale quando aveva 7 anni. Sono stato violentato a 7 anni, un vecchio mi ha afferrato per strada e ha abusato di me. Non mi ha più rivisto, non mi ha mai più cercato, io non ci ho mai più pensato, ma è chiaro che insomma parte della vita, come dire, turbolenta di Mike Tyson ora viene attribuita a questa confessione. Ho subito violenza quando avevo 7 anni. Ricordo il titolo della Gazzetta dello Sport, l'appello che ho fatto ieri, lo fa anche oggi la Gazzetta ed è giusto, alle 15 oggi c'è Napoli-Roma, il titolo emblematico della Gazzetta è questo: una partita di calcio. Ricordiamoci che è solo una partita di calcio, n'è vero? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Alle 8 e 20 minuti in punto è arrivato Carlo Gabardini e mi ha guardato e ha detto: oh, Alessio Maurizio è diventato biondo. Buongiorno. è che sono Alessandro Milan, abusivo qua in questa conduzione. Ma oggi come abusivo? Io sono felicissimo, è il mio nuovo maestro. Perché sai, si aspetta tutta la vita. Io mi immagino quel momento che io sono sempre qua, c'è Alessio Maurizio, uno dice un giorno starà male, toccherà a me, andrò io. E invece giustamente si può sostituire, Oggi si intitola esatto. Si può sostituire. Questo è il tema di oggi. Tra l'altro questa canzone che abbiamo appena sentito era studiata, perché è All About That Bass, che è questa nuova canzone che abbiamo deciso con Alessio di mettere all'inizio della trasmissione, quando entriamo e siamo entrambi in onda, perché è una canzone di Meghan Trainor, che è una cantante un po' in carne, come si suol dire. E quindi io ieri ne ho parlato, una cicciona si può dire. Io posso dirlo tanto quanto posso dire Ricchione, perché sono Ricchione e sono un ex obeso, quindi non c'è assolutamente problema. E ci sembrava importante questa canzone, diciamo il motto di questa cantante è: ogni centimetro di te è perfetto dalla testa ai piedi. E quindi sembrava giusto. Poi in questa settimana in cui Vincenzo, il ragazzino che è stato seviziato da quei eroici 24enni che, siccome è grasso, hanno deciso di punirlo criminali dementi, diciamo, è tornato a casa, quindi ci sembrava giusto. Poi è anche il periodo in cui tra Gasparri non so se hai seguito i tweet, Gasparri e la ragazzina, esatto, io ne ho scritto pure su Facebook che diciamo con un tweet il vicepresidente del Senato se l'è presa con una quindicenne dicendo meno droga. Tra l'altro meno droga, vogliamo parlarne, perché non ha detto no droga, ha detto meno droga, quindi meno un po' va bene evidentemente. No, non lo so, è sabato mattina, è Halloween. Ma non è che Alessio Maurizio l'ha rapito, sarà qualche festa secondo di Halloween? Secondo me è una festa, assolutamente. Debosciato. Ma che soprattutto non voleva esserci, perché siccome c'è questo problema che io parlo sempre della mia gayitudine, e ieri era l'anniversario del giorno in cui io ho detto a tutto il mondo che sono gay, perché era il 31. Che fai, lo festeggi? Halloween, festeggio, no, certo. Capito, festeggi l'anniversario, che festeggi? Lo festeggio, Halloween. Cioè è l'anniversario della lettera pubblicata sulla prima pagina di Repubblica, e quindi... L'ho festeggiato per me Tim Cook, il boss di Apple, che ha scelto la stessa data praticamente per dire: sono fiero di essere allora, gay. Allora, visto che l'hai citato, oggi leggi il foglio di Ferrara che dice che Tim Cook ha fatto una cosa buona per un certo verso e cattiva da un altro verso. Ma adesso non ti sto poi a riassumere tutto di Ferrara. Devo leggerlo. Te lo accartoccio e ti tiro. Con l'editoriale di Ferrara sul foglio, Carlo Gabardini. Sono contento perché imparerò delle cose nuove oggi che ho un nuovo maestro, diciamo. Io dico sempre che sono lo stupido dei due, direi che da oggi dirò sono lo stupido dei tre, è giusto? Chi è il maestro? Ferrara? No, il maestro per me è Alessio Maurizi, tutti i sabati e tutte le domeniche vado a lezione da lui, a lezione di radio, diciamo. Senti Carlo, sai che abbiamo il gioco? Cioè tu certo, lo sai, sono io, certo che abbiamo il gioco. Abbiamo il gioco e invitiamo i nostri ascoltatori a chiamare all'800 24 0024, è il numero verde per segnalarci che cosa, se avete un bene archeologico, un monumento della vostra città, magari ce lo raccontate anche. Certo. Di cosa si tratta? Cioè, ci raccontate che cosa, come mai amate molto questo luogo? Esatto. C'è una storia legata a questo luogo che ve lo fa amare particolarmente. E che andrebbe riqualificato magari attraverso anche l'art bonus. Dopo spiegheremo che cos'è l'art bonus, è una nuova possibilità che è stata consentita con un progetto di legge per la cultura. E quindi raccontateci da dove ci chiamate, quale bene archeologico, architettonico, culturale quale vorreste riqualificare della vostra città? Perfetto, questo tu, è... Tu ne hai uno? Io... No. Il mio motorino avrei, nel senso che la mattina... No, ormai è sempre più spesso, il mio motorino ha 15 anni e la mattina mi guarda con quella faccia come per dire posso non andare oggi a lavorare, per piacere. Posso non accendermi oggi. Esatto, infatti è per quello che tutte le mattine quando vengo in motorino faccio la stessa foto nello stesso punto in cui oggi, infatti, diciamo... annunciavo che ci saresti stato tu al posto di Alessio, perché stanotte ci siamo sentiti e diciamo al capezzale di Alessio Maurizi abbiamo deciso. Tra l'altro qualcuno ci scrive: occhio ragazzi che Halloween era ieri, e infatti Alessio Maurizi è da ieri che è rimasto ingabbiato, certo, in questa la festa è iniziata ieri ma non è ancora finita, per lui non diciamo. È ancora finita, c'è chi è ancora truccato in giro e con le zucche in testa. Vabbè, senti Carlo, io vorrei iniziare questo viaggio andando a Ciampino. Andiamo a Ciampino perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così chissà come si farà, chissà. Allora, 800 24 00 24 è il nostro numero verde, chiamateci per dire se volete. Forse segnalarmi. Dovrei imparare a dirlo io questo numero, perché in effetti non sono neanche in grado di dire il numero, scrivo, non l'ho mai fatto una volta. I numeri grossi così, 8, puoi dire 800. Quindi però potete chiamarci all'800 24 00 24. Sai perché Radio 24. Cioè, potevo arrivarci da solo, tu dici. Non lo so. Ah, quindi per chiamare Radio 2 202 si fa? Non lo so. Non lo so. 2002, non lo so. Forse ho sbagliato, non bisogna citare un'altra radio. Tu sei, devi si redarguirmi. Si può. Tu devi redarguirmi. Radio Bella e Monella, per esempio. Sai che esiste Radio Bella e Monella? Ah sì? E dove hai iniziato in tu? No. Io ho iniziato a Radio Village, si chiamava. Ma non ah, c'è roba Radio roba Number della One, mia squadra, no. Village, no? No, non è il Gay Village. Va bene, allora, dai, stiamo ciliando. Ma a Ciampino c'è una cosa molto seria. Qualche anno fa è stata fatta una scoperta archeologica molto importante. I resti della villa di un console romano, poi sono state trovate 7 statue, eccetera. Ma cosa succede? Succede che il comune di Ciampino, vicino a quella zona, proprio vicinissima a quella zona, vuole edificare. E tutto è finito al TAR. Noi abbiamo con noi Rodolfo Corrias, che è presidente di Italia Nostra, sezione di Ciampino. Buongiorno Corrias e benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, che succede lì a Ciampino? È rappresentata questa cosa anche da Gian Antonio Stella sul Corriere come la cultura, l'arte, la preservazione delle nostre ricchezze culturali da una parte e il desiderio di cementificare dall'altra. Allora, brevemente vorrei dire agli ascoltatori che il nome del comune di Ciampino è subito collegato con l'aeroporto. Sì. Quindi si pensa a un sobborgo di Roma insignificante. In realtà questa cittadina è nata con un progetto avveniristico, come città giardino radiocentrica. Quindi è una città straordinaria che è stata presa d'assalto dalla speculazione edilizia a partire dagli anni 60, che ha stravolto quel tipo di progetto e quel tipo di vocazione. Questo territorio è ricchissimo di reperti archeologici. E, tanto è vero che si pensa che Roma, che aveva 1 milione di abitanti ai tempi dell'antica Roma, fossero tutti concentrati al centro. Sì. In realtà vi era una rete fittissima di strade, la campagna era fortemente urbanizzata, con fattorie poderose, ricchissime, e quindi piene di reperti, di statue, bassorilievi, mosaici. Che sono stati trovati anche lì, a Ciampino. Ciampino è ricchissima di queste realtà. Ora, che cosa succede? Che quest'area interessata è la ex tenuta dei duchi Colonna, che erano i signori di Marino. Sì. Perché Marino era la signoria di questo luogo. Sì, quindi... E questo muro di età ancora non precisata, potrebbe addirittura essere anche dell'anno 1000, perché la fattezza di queste mura equivalgono a una mola cavona che è della stessa epoca, però può anche essere successiva. Quindi quest'area è ben circondata da queste mura ed è ricca al suo interno di ben 3 casali che si dice siano dal 1300, ma però qualcuno pensa anche più antichi. Corrias, perché sì, cioè, la questione è, lì si vuole edificare palazzi per dare le case alle persone in quella zona? Certo, fare dei palazzi in una zona archeologica è molto, come si dice a Roma, molto chic e molto fico, perché in realtà si costruiscono dei palazzi perché siano più belli, perché diciamo vista su villa, vista villa, vista statua millenaria. Oh. Allora questo io lo posso capire da parte dei proprietari privati. Chi avendo un terreno non pensi al meglio di renderlo redditizio al massimo, ma non è comprensibile da parte di un'amministrazione comunale, fra i quali nei vari anni, nelle varie consigliature che si sono succedute, vi erano a sedere persino gente che si dice amante del verde. Cioè lei dice, lo capirei se lo facesse un privato, non lo capisco nel momento che lo fa il comune. Certo, non lo capisco. Ma però uguale, o uni o gli altri, sì, diciamo, non è che cambi. In teoria preservare il nostro patrimonio culturale dovrebbe essere una questione che vale tutti. Per tutti. Ecco. Però Corrias, mi scusi, c'è anche un TAR di mezzo, cioè c'è stata un'udienza e ci sarà una sentenza. Proprio. Allora, il TAR del Lazio, c'è stata l'udienza il 30. Sì, l'altro ieri, ancora non sappiamo le risultanze perché è in fase decisionale, ma la vicenda TAR è la vicenda finale, perché noi come sezione di Ciampino, che siamo nati piccolissimi come sezione, sì, oggi siamo diventati la sezione più grande d'Italia con 140 adesioni, più grande d'Italia in proporzione ai 36.000 abitanti del comune. Mm-hmm. Noi abbiamo dovuto fare una diffida al ministro l'altro anno. A seguito di quella diffida, finalmente si è mossa la soprintendenza, sì, che già era in movimento, però in maniera troppo lenta. Ma mi scusi se la interrompo, io sono lo stupido dei due, anzi oggi devo dire lo stupido dei tre, giustamente. Smettila. Ma nel senso che voi state chiedendo che non vengano costruite queste palazzine, è così? Assolutamente, non debbono essere costruite queste palazzine. Addirittura abbiamo visto che il cardinale Girolamo Colonna nel 1600, sì, aveva scoperto già il monumento a Messalla e l'aveva donato al re, a un re europeo. Quindi per dire il valore anche però, del console romano. Sì, no? Però chi oggi deve andare lì ad abitare, nel senso, la questione è, servono o non servono queste palazzine? Servono delle case a Ciampino o no? Allora, gli eredi Colonna da qualche parte devono dormire? Perché abbiamo avuto un convegno, perché Ciampino ha anche una parte di Appia Antica, abbiamo avuto un convegno, sì, perché noi desideriamo che quest'area venga a far parte del parco dell'Appia Antica. Sì. Esiste una legge regionale del Lazio, numero 72 del 75, ci ha informato di questo l'ex presidente Santarelli, di molti anni fa. E che dice questa legge? Questa legge dice che è assolutamente vietato ai comuni del Lazio di superare l'incremento di popolazione del 30%. Qui invece Ciampino è la città con la più alta densità d'Italia. Sì. Ogni buco si buttano giù palazzinette per farne da 4 da 5 piani. E vabbè, ma insomma, noi qua intanto la ringraziamo Corrias e vedremo come va a finire questa vicenda. Sai che Carlo, leggevo che la nuova filosofia è delocalizzare, anche per evitare, no, tutti i disastri dove sei costruito, dove magari poi frana, cioè prendere le persone da lì e metterle in posti, delocalizzare, cioè spostare, buttare giù le case da lì e metterle. Che che come parola è bella, ma io ho delle difficoltà a spostarmi da Porta Venezia, se mi delocalizzano mi viene da piangere, no veramente. Adesso, immagina tutta una palazzina che viene spostata, uno dice almeno vado a vivere da un'altra parte e non ho più i miei condomini, no, ti delocalizzano tutti insieme, ti prendono tutti insieme e ti rimettono. Però insomma è difficile sempre quando bisogna valutare due ricchezze, che è la ricchezza, l'importanza di avere una casa, in questo caso la ricchezza culturale, archeologica di, certo, di, sì, che va, va detto, diciamo, a difesa di questa, di questo tentativo di bloccare i lavori, che mi sembra che la palazzina la vogliono costruire a 5 metri da questa, esatto, villa, nel, esatto, senso che 5 metri, 5 va metri bene, è un po' tutto, troppo, va bene la vista, ma così, esatto, ti entra la statua dentro, va, esatto, bene. Ma dobbiamo andare in pubblicità, voi chiamateci all'800 24 00 24, qual è il bene archeologico della vostra città che vorreste riqualificato con l'art bonus, e tra poco spiegheremo di che diavolo si tratta di questo, va bene? A dopo. Posso. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, questa si può fare. Io sono Alessandro Milan, l'abusivo, e Carlo Gabardini è qua invece. Io sono sempre io. Invece tu, diciamo, sei un po' il Floris di Radio 24, il se Floris, si può dire. Devo prenderlo come un insulto, no, come un complimento? È il piglia tutto, è un complimento. Il problema è per Alessio Maurizi, che è un po' la Lilli Gruber di Radio 24 a questo punto. Quindi è quello Lilli il problema. No, vabbè. Senti, ma sai, adesso ci sono tanti ascoltatori, ci stanno chiamando, tra poco diamo loro la parola. Ma durante la pubblicità anch'io ho messo questa pagina del giorno davanti alla faccia di Carlo e dico: Carlo, io non mi capacito di questa cosa, e da quando la leggo in rassegna stampa, ma perché secondo te Marianna Scalfaro, la figlia del presidente Oscar Luigi, ha la scorta di Stato? Ma anche perché non capisco chi è che dovrebbe avercela con la figlia, nel senso, ma nessuno, che possiamo, meno dircelo, male nessuno, che più che una scorta è un autista, come un autista, si diceva prima, pagato, come, da te e me, esatto, e dagli, esatto, ascoltatori. Oggi è sabato, paga tu, che paga, io pago domani, che non c'ho voglia oggi di pagare. Oggi è sabato, voglio andare con la scorta all'IKEA. Esatto. Tutti all'IKEA, poi li beccano tutti all'IKEA, non ho capito perché. Che cosa vanno poi a fare all'IKEA? Nel senso che avranno delle case straarredate, oh, ma non credo che abbia. Dici, ho proprio bisogno di quel tavolino, di quel piccolo mobiletto per il bagno. Vabbè, non che... Che ne sai, sì, cioè, però insomma, con la scorta, l'autista, l'autista. La scorta, come lo dobbiamo chiamare? L'autista di Stato. L'autista di Stato. Se va all'IKEA, io avrei bisogno di un copro e piumone. Io in questa settimana mi sono occupato sostanzialmente. Ma infatti, l'ho anche chiesto. No, io non ho nessuna scorta. L'autista? Nemmeno. E soprattutto sono solo come uno stronzo, si può dire? No, non si può dire. Solo non so se si può dire. E questa settimana ho avuto l'enorme problema di infilare il piumone dentro il copro e piumone. Tu, sì, hai una tua tecnica, nel senso che l'ho chiesto su Twitter, ma hanno risposto in tantissimi, infilare mandandomi il piumone, dei video. Video. C'è un video bellissimo, sì, che spiega che la tecnica del burrito, sì, che bisogna fare tutto un rotolino con il copri. Guarda che è difficilissimo da soli, perché l'unico modo io è che mi filo dentro nel copri piumone e rischio di morire soffocato. Io una volta ho fatto la selezione provinciale, ma sono arrivato secondo a infilatore di ma che minchia è il copri piumone? E come? Sì. Ma è un problema, guarda che... Scommettiamo, anzi, sì, chiamateci, è un problema, sì, è un problema gravissimo, soprattutto. Chiamateci dei single, anche numero all'800 24 00 24. Ottimo. Come si infila un piumone nel copripiumone? Esattamente. Va bene. Esattamente. Conoscete la tecnica del burrito? Vabbè, in realtà gli ascoltatori ci hanno chiamato per altri motivi, tipo Girolamo da Firenze. Buongiorno Girolamo. Come buongiorno, sta? Buongiorno. Buongiorno. Grazie dell'ospitalità. A lei, dica. Dunque, no, c'è questa famiglia antica di Firenze, i Catellini, che, sì, Dante celebra fra le buone, antiche, sagge famiglie del tempo del suo Trisavolo Cacciaguida nel Paradiso, mm-hmm, che costruì, e è stata signora per secoli, di un castello, il castello di Castiglioni, che sta sopra una pieve romanica stupenda che sta sulle colline attorno a Firenze, a Cercina. Questo castello è poi diventato una villa rinascimentale, ha visto passare da lì Leone X, ha visto miracoli che sono raccontati anche in lapidi contenute lì dentro, come quello relativo a Sant'Antonino, di Vescovo, eccetera. Beh, questo castello è stato assolutamente depredato, è caduto, sta cadendo completamente a pezzi, è stato saccheggiato. Io che lavoro nella scuola, ho segnalato da anni, sì, e abbiamo persino messo su internet, su una piattaforma web tipo Google Map, che si chiama Community Walk, cioè passeggiate di comunità. Sì. Abbiamo messo, diciamo, la documentazione visiva anche. Per cercare di trovare qualcuno che possa fare qualcosa. Scriva a Renzi, non lo so. Renzi non risponde mai. No, ma, ma state facendo mai una raccolta fondi o volete, no, diciamo, no, mettere, sì, l'attenzione? L'attenzione delle amministrazioni pubbliche. Per esempio, lì siamo fra due splendidi parchi, sì, il parco di Montemorello e il parco di Pratolino, e una scuola edile. per risistemare la collina che sta andando anche lei poverina a pezzi con i vecchi muri di cinta in muretti a secco costruiti nei secoli dalla fatica della mezzadria. Anche quello è in rovina e poi Firenze si allaga. Quindi diciamo ci sono tutta una serie di concomitanze che converrebbe effettivamente al di là della propaganda sistemare fatti reali. Vabbè, insomma, il castello di Castiglioni. Castiglioni. Noi lo segnaliamo. Serve un miracolo, direi, visto che è un posto già pieno di miracoli, giusto? Cioè, stai vedendo un campo minato? No, stava raccontando che giustamente che ha visto ospite anche Leone Decimo e poi ci sono stati diversi miracoli. Non ho detto niente. Ha detto che ti guardano da Firenze, da Roma ti guardano. A proposito di Roma, Francesco da Roma, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Tanti auguri per questa giornata. Grazie. Ogni santi. Non per Halloween. Sì, per ogni santi. Allora, quando stavano costruendo la fontana di Trevi. Sì. La fontana di Trevi, scusate. Trevi. Di Trevi. Pensavo fosse un'altra fontana. Anch'io, la fontana di Trento. Trevi. C'è la fontana di Trevi a Roma. No? È una fontanella. Trevi. Allora, Stefano Salvi, lo scultore, sulla balaustra destra della fontana, sì. Mentre costruiva a destra c'era un barbiere, Basilio, sì. Si chiamava Basilio. E dobbiamo aiutare lui? No. Come stava? Qua, costruendo la fontana, li copriva la scritta barbiere. Sì. Allora si mise a litigare con Stefano Salvi, che era lo scultore, insomma, che costruiva la fontana. E disse, ma io qui mi coprite tutta la vista al mio salone. Allora Stefano Salvi dice, guardi, e adesso le farò una cosa. Se voi vedete la fontana di Trevi, sul lato destro c'è il bicchiere del barbiere con il pennello e con la schiuma che scola, che sarebbe... Simboleggerebbe Basilio, insomma, quello lì. Sì, e gli fece questo bicchiere. Questo regalo. Per non poterlo sentire più. Ho capito, certo. Ma noi che possiamo fare? È una storia bellissima, è una storia Francesco, stupenda. Ma noi dove ci porta questa storia? Ecco, volevo dirvi una cosa. Rimettiamoci il barbiere. Siccome sta in restaurazione, la fontana di Trevi, da intervenire e da poterla finire presto, perché è un bene monumentale mondiale. Da intervenire così. Va bene. Un appello. Ma viva soprattutto Basilio. Se non c'è più il barbiere, lì bisogna metterci forse qualcosa. Nel senso, le forbici anche. Cioè, nel momento che uno apre lì un McDonald's, forse bisogna mettere una statua di uno che mangia un hamburger dentro nella fontana di Trevi. Non lo so. Posto dell'insegna di McDonald's, metti giustamente un putto con l'hamburger. Non voglio neanche pensarlo. Ma c'è un ospite con noi che dopo il traffico troveremo, è già con noi, però lo voglio intanto salutare. Tommaso Montanari, che è associato di storia dell'arte moderna all'Università Federico II. È anche un blog molto seguito sul fattoquotidiano.it. Buongiorno professor Montanari. Buongiorno a voi. Allora, dopo il traffico siamo da lei perché vogliamo capire che cos'è questo Art Bonus e parlare un po' di arte nel nostro paese. Si può fare cronache da un paese migliore. Siamo qui allora alle 8:48 minuti, c'è con noi il professor Montanari che ci aiuterà a capire. Per la verità lei intanto è critico di questo Art Bonus, mi sembra di capire professore. Ma diciamo che è un po', a Roma si dice che è un po' una, si potrebbe dire un po' una sola. Nel senso che al massimo, suo picco massimo, prevede una copertura dell'1,8% del bilancio attuale dei beni culturali, cioè 18 milioni di euro. Faccia conto che in Francia il mecenatismo per il patrimonio culturale è 1 miliardo di euro l'anno, 1 miliardo contro 18 milioni. Ma spieghiamo questo Art Bonus, che cos'è precisamente? Puoi fare delle donazioni al patrimonio culturale che vengono defiscalizzate attraverso un credito d'imposta prima del 65 e poi del 50% spalmato su 3 anni. Ecco. Non è proprio una roba. Che cosa è che non va, professore? Diciamo. Perché a lei non piace neanche questa sorta di mecenatismo privato per salvare la... Lei, per esempio, è stato molto critico all'intervento di Della Valle, l'imprenditore Della Valle, per il Colosseo. Perché? Cosa allora, c'è che non dobbiamo fare un po'. Dobbiamo distinguere un po', Della Valle non è mecenatismo, è sponsorizzazione. In Francia hanno fatto 5 leggi, una migliore dell'altra, per incentivare il mecenatismo. Che cosa vuol dire? Io ti do i soldi, non chiedo in cambio nulla, se non un pubblico grazie. La sponsorizzazione è un'altra cosa, noi abbiamo invece in Italia puntato sulla sponsorizzazione. Nel codice dei beni culturali non c'è nemmeno nemmeno un articolo sul mecenatismo, e ce n'è una sulla sponsorizzazione. La sponsorizzazione è un fatto commerciale, non è una mia critica, è un fatto, come dire, un fatto oggettivo. Certo. È un investimento commerciale da parte di un'azienda che fa pubblicità e conta con un piano di rientro, anzi di ricavi, di ricavare dei soldi dall'investimento che fa. Allora io do 20 milioni al Colosseo e calcolo che ne guadagno 200 milioni. In Italia abbiamo deciso di incentivare questa strada, in Francia si è fatta la scelta diametralmente opposta. Cioè il mecenatismo. Cioè il mecenatismo. E come funziona quello? Cioè funziona comunque che io ci metto dei soldi, ma non lo posso dire, io azienda privata non lo posso dire in giro che ci ho messo dei soldi, o sì? Naturalmente si può dire, ma non ci sono dei ritorni economici. Le contropartite, cioè, che prevede il contratto. Un ritorno d'immagine. Certo. No, nelle sponsorizzazioni italiane. No, dico nel mecenatismo, nel rimecenatismo è un ritorno d'immagine. Cioè uno dice... Però si calcola in maniera molto severa, e negli Stati Uniti è ancora più severa che in Francia, quanto è il ritorno economico anche del pubblico grazie. E se supera una certa quota percentuale, che è molto bassa di quello che ho dato, non è più mecenatismo e quindi saltano i benefici fiscali. Sì. Cioè è una cosa fatta seriamente. Allora, questo noi non l'abbiamo mai fatto, sostanzialmente. Abbiamo invece investito tutto sulla sponsorizzazione, però, che è un'altra strada. Certo, qual è la strada dunque che lo Stato si occupi dell'immenso patrimonio culturale? Però spesso si ricorda Tremonti, con la cultura non si mangia. Allora, intanto vorrei dire che esiste, diciamo, ci sono tre possibilità. Mecenatismo, quello classico, cioè del Difendi, che a proposito della Fontana di Trevi mette l'immagine delle borse sulla Fontana di Trevi, al posto del barbiere ci sono le borse di Difendi, non è che sia cambiato molto. E questa è una possibilità. Poi c'è la sponsorizzazione della Valle. C'è una terza possibilità che io trovo ottima, cioè il crowdfunding, il mecenatismo di massa. Raccogliere i soldi. Come dire, l'azionariato diffuso del patrimonio. Questo sì che è una cosa che secondo me va nella direzione della nostra Costituzione. Perché il mecenatismo, che noi elogiamo spesso, ha una storia di chiaroscuri. Nella nostra storia, anche rinascimentale o barocca, il mecenate è sempre stato qualcuno che ha dato dei soldi in cambio di un disegno, diciamo così, di potere vario. I Medici hanno fatto il Rinascimento, poi si sono presi lo Stato però di Firenze e non c'è stata più la Repubblica. Semplifico molto, però certo. C'è sempre stato uno scambio, evidentemente. Il mecenatismo diffuso, in Francia c'è un programma bellissimo del Louvre che si chiama Tu Mecen, tutti mecenati. Tu restauri la nicchia di Samotracia raccogliendo soldi, anche 2 euro a testa. È interessante, sì, il fenomeno del crowdfunding, proprio raccogliere. Sì, da un lato è bellissimo, se posso però chiedere, nel senso che io sono assolutamente a favore del crowdfunding, però è un po', invece che un privato che decide di metterci dei soldi, è di nuovo che la paghiamo tutta noi, cioè, nel senso che dobbiamo autotassarci in qualche modo ognuno di noi per ogni cosa che uno vuole vedere restaurata, è così? Certo, d'altra parte voglio dire, se la proprietà, che non quella giuridica, ma quella simbolica e spesso anche quella sostanziale, si paga, un privato ci mette i soldi perché vuole esercitare una forma di privatizzazione. Se vogliamo che rimanga di tutti, innanzitutto c'è il vero mecenatismo, che è la fiscalità generale, pagare le tasse. Esatto, è questo. Vuol dire mantenere il patrimonio. Esattamente. Ma accanto allo Stato c'è anche la possibilità che tutti facciano, se voglio dire, in Italia non si è mai organizzato un Telethon per l'arte. Sì. La potenzialità di una cosa del genere sarebbe immensa, anche quella educativa. Ma sarebbe immensa se la organizzassimo all'estero, sarebbe geniale, su una televisione estera, per salvare il patrimonio italiano, di modo che ce li mettono gli americani. Perché, perché noi abbiamo finito i soldi. No, perché tutto questo discorso è molto bello, professor Motai, questo discorso è molto bello, e Carlo, però stiamo parlando del fatto che vuol dire che facciamo questi discorsi perché c'è uno Stato che non è in grado di tutelare il proprio straordinario patrimonio culturale, architettonico. Allora, Tremonti, quello della cultura non si mangia, ha dimezzato d'un colpo il bilancio dei beni culturali. Non era obbligatorio farlo, si sono fatte altre scelte. Nel paese del Mose o dell'Expo è un po' difficile dire che non ci sono i soldi, diciamo, si sono spesi in un altro modo. Certo. E non è un dogma, diciamo, della fede che lo Stato italiano deve dare 1 miliardo l'anno al patrimonio culturale. Questo è il bilancio, esattamente quanto la Francia raccoglie col mecenatismo sarebbe il nostro bilancio pubblico. La media europea è il doppio della spesa pubblica per il patrimonio, è il doppio di noi, cioè anche in Spagna fanno, in Spagna addirittura 3 volte noi. Quindi, diciamo, se fuori dai confini dello Stato italiano, ma in Europa, si fa il doppio o il triplo, forse non è impossibile farlo. Si può fare, no, si può si fare. Può fare. No, utilizzo no, una frase beh, così. Bisognerebbe volerlo fare. Esatto, è questo, mi sembra che sia un problema di volontà più che... Di volontà politica, certo, ma quando dice che sono stati tolti i fondi per dirottare su altre cose, lì poi è la scelta politica, ogni governo. La scelta politica di nessun governo che ha mai creduto davvero nella cultura. Io rimango convinto che alla stupidaggine della cultura non si mangia, si debba rispondere da una parte con un'economia del patrimonio culturale sostenibile, mm-hmm. che non è un'economia di rapina, di sfruttamento petrolifero, dall'altra forse bisogna anche dire che, come dire, la cultura ha sempre dato un senso alla pancia piena, non è stato mai un modo per riempire la pancia. E questo è un discorso più complesso che però va fatto pure. È un discorso culturale, ecco, per l'appunto. Intanto, professore, la ringraziamo molto. Grazie mille, professor Tommaso Montanari. A voi. Che voglio ricordare, insegna storia dell'arte moderna a Napoli, all'Università Federico II, anche un blog sul fattoquotidiano.it. Carlo, noi dobbiamo andare al giornale Rai. Sì, signore. Dobbiamo invitare le persone a chiamare, anche perché ci sono due biglietti che daremo alla fine della puntata per la mostra del FAI a Villa Panza, a Istesis. Alle origini delle sensazioni. A chi, al nostro insindacabile giudizio, ci ha raccontato la storia più bella su un monumento da salvare o preservare della propria città. E quindi chiamateci 800 24 00 24. Ma lo sai benissimo allora questa era tutta scena. E sto imparando, è tutta notte che ci provo, dico Dio, c'è Milan, mi chiederà mica il numero. Se mi chiede il numero, io che dico? Che faccio? Ma tu dai il numero, dai il tuo numero di cellulare, ma chi se ne frega? Più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E questa è Lucky Man dei The Verve, che è il nostro Si può fare in musica. Noi chiediamo ai nostri ascoltatori di mandarci la loro canzone preferita, quello che per loro è il loro Si può fare in musica, e lo possono fare sui nostri social, quindi scrivendo a Si può fare 24, oppure ai nostri personali, quindi il mio che è @CarloGabardini e il tuo che è Alino Milan, però scrivete ad Alessio Maurizi. E vorrei anche dire che è la prima volta che entro io per primo, non so come si dice così, entrare per primo, sì. Cioè solitamente è sempre Alessio che entra per primo, quindi diciamo io per oggi ho fatto, io direi che posso andare in vacanza a questo punto. Complimenti al nostro Simone Rota, che è un ascoltatore che c'è, beh, sta qua dei Verve è straordinaria, cioè. Simone, complimenti, un applauso mio per questo. È perfetto, il nostro sostituto di Alessio Maurizi, il grande Alessandro Milan, che è qui giustamente a farmi anche da badante, se possiamo dire, perché no, io da solo non sarei in grado. No, io invece ne sono molto contento. No, tu soprattutto non sei in grado di mettere il piumone nel copripiumone. Esatto, questo è il mio vero problema di questa settimana. Infatti, insieme al diteci quali sono i beni culturali della vostra città che vorreste rivalorizzare, abbiamo lanciato anche questa idea. Come si mette il piumone nel copripiumone? Adesso qua gli ascoltatori si dividono, c'è cioè chi vuole intervenire su un tema e chi su un altro. Esatto, e noi ascoltiamo tutti. Per esempio, direi. Cristina da Milano. Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, innanzitutto siete troppo simpatici, quindi questo va detto. No, non diciamolo due volte. Grazie. Perché tanto io non tornerò più qua. No, vabbè, ma tanto ti ascolto la mattina, per cui non c'è problema. Lui fa i feriali, diciamo, noi facciamo i festivi, esatto. Quindi non è che può fare tutto, giustamente. Siete bravissimi davvero. Grazie mille. Eccoci qua. Allora, dunque, sembra apparentemente difficile, però... Che cosa? Coprire praticamente... Ah, attenzione, il contest! Ah, siamo per il copripiumone, io prendo appunti. Prendo appunti, signora. Ci sono degli appunti, aspetta, io prendo un foglio e una penna. Dica, Cristina, eccoci qua. Allora, dunque, praticamente, se lo fate in due è perfetto perché ci vogliono 5 secondi. Però, in due... Diventa un po' più, però è un problema da single questo, è ovvio. Si può fare. Si può fare. Stendi il copripiumone sul letto. E praticamente il copripiumone sul letto, poi sì. Il piumone invece lo tieni al piede del letto. Per terra? Ma no, va no, appoggiato sul materasso, ecco, no. Ecco. Dai, piedi del letto. Piedi esatto, del letto. Allora prendi l'angolo del copripiumone. Quale? E praticamente il primo, diciamo, perché è il primo, se non sono sei... quattro. No, no, l'angolo, allora c'è la parte aperta, giusto, che rimane sì, in basso. Sì, in basso. La parte alta è chiusa. Ah, io l'ho messo in alto l'apertura. Aspetti che abbiamo qua un letto in studio e stiamo facendo in diretta. Usiamo la scrivania come esatto, letto. Allora, esatto, esatto. Va bene. Ho girato il copripiumone. A questo punto infilo. Comunque, si prendono praticamente gli angoli. Con il braccio vai dentro come se lo volessi rovesciare e prendi l'angolo del piumone e lo tiri. Proprio viene dentro praticamente. Mi sono perso. Io mi sono perso. E poi io non ho il braccio così lungo che arrivo fino niente. In fondo al copripiumone. No, ma guarda, te lo devi arrotolare praticamente nel braccio, ma è semplicissimo. Il copripiumone o il piumone? Vabbè, ma Cristina, ma questa operazione, cioè quando uno è ben allenato, tipo se fa il campionato regionale, quanto ci mette? Esatto. Il massimo. Allora, 5. No, guarda, davvero, è velocissimo adesso. Ma io è una settimana e per 5, il momento 10 secondi. Cioè, io stanotte ho dormito abbracciato a un siluro perché ho provato la tecnica del burrito, che è quella dove credo che sia simile a quella che mi sta dicendo lei, dove si arrotola tutto insieme e poi bisogna. No, ma non si arrotola davvero. Praticamente si prende l'angolo e si prende l'angolo del piumone e si tira dentro, è veramente velocissimo. Dai, Carlo, 5 secondi. Ma fai come me che c'ho la trapunta sul lenzuolo e risolvi la questione. Beh, perché tu c'hai anche una moglie, così no, è facile, non ti occupi di quello. Comunque farò un piccolo video così ve lo mando. Dai. Guardi, okay. lo faccia perché c'è molto bisogno. Comunque avviso anche tutti che ci sono un sacco di video. Oggi per esempio, perché ogni giorno io mi informo su questa cosa, oggi ho visto un video di un sovietico, di un russo proprio che faceva, mostrava mettendo il corpo più umano con una tecnica difficilissima, per terra faceva questa cosa. E la cosa più bella erano tutti i commenti di giustissime mamme italiane che dicevano: sì, vabbè, ma per terra, scusami, mi metti per. Va bene che il pavimento è pulito. E qualcuno che anche diceva: se io ho una stanza in parquet completamente libera per poter mettere il copripiumone in terra, vuol dire che ho i soldi anche per pagare qualcuno che mi infili il piumone. Cristina, grazie. Grazie mille. Aspettiamo il video, soprattutto la tene, Carlo. Certo, certo. Anche perché ho freddo, ho bisogno di infilarlo entro dicembre. Sentiamo prima del traffico, Antonella, sempre da Milano. Antonella, buongiorno. Non c'è Antonella? Più. Basta, ha scoperto queste cose del copripiumone. Ah, è andata a fare un altro video. Zilena, giusto? Dalla provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, a voi conduttori, a tutti i radioascoltatori. Anche a Filippo Reggi Regia e Giorgino De Luca. Sì, a Milan. Tutti, anche Cruciani salutiamo. Va bene, dica Zilena. Adesso non esageriamo. Cioè tutti, va bene, Cruciani. Meno Cruciani, vabbè, non vale. Effettivamente ho provocato anche Cruciani, un po'. Ma in un altro radio. Va bene. Dica Zilena. Ci dica. Allora, io vorrei salvare. Io abito a Sanremo, come sapete, che è una meravigliosa cittadina. No, come? Noi non lo sappiamo. No, perché l'avevo detto alla signora. Dalla provincia, io ho detto alla provincia. Ma non c'è la delazione, poi non è che ci dicono tutto quello che voi dite con le centraliniste. Allora, abito a Sanremo, sì, che è una deliziosa cittadina, e a Sanremo proprio al centro, sì, praticamente al fianco del casinò, quindi in un posto centralissimo, c'è Villa Anger, che è la villa del mio cuore, perché Villa è una Anger. Villa meravigliosa. E cos'ha questa villa? È abbandonata? Questa villa che è meravigliosa in stile Liberty. Ah, ecco, ci chiedevamo di che epoca fosse. Sì, sì, in stile Liberty, ma con delle... Con delle decorazioni sia in ferro battuto e sia piastrellato con tutti dei fiori meravigliosi. E lei che appello vuole lanciare per questa villa? Di fare lì il festival, direi, a questo punto. Sul piastrellato. Quasi. No, è perché questa villa già parecchi anni fa era stata abbastanza restaurata, cioè per il 70-80%. All'interno. Sì. Poi sono finiti non i soldi. So per quale ragione è stata non sono stati terminati i lavori e quindi adesso facciamo questo appello pubblico. Per Villa Anger. Esatto. Villa Anger a Sanremo. Villa Anger. Anger. Molto bene. Zilena, grazie. Perché dobbiamo andare al traffico. Villa Anger. Tu vuoi mettere. Adesso ci penso. Ci penso. No, ecco, ci penso. È che è difficile perché uno c'ha 5 euro. Va lì per mettere la Villa Anger. Di fianco c'è il casino. E secondo me entra nel casino. Eccola. Viva la cultura. Esatto. Viva la cultura. Carlo Gabardini. Viva la cultura. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Avere tanti soldi, che gioia, senza problemi vivrei. Soddisfare qualunque voglia, questo è ciò che vorrei. Futuro nero e nero il futuro, alternativa non c'è. Chi è che è disgraziato come me? Chi è più sfortunato? Chi più miserabile di così? Furbi, furbi, furbi, accumulate i soldi, all'inflazione voi sordi, faremo i conti più tardi. Questa è Si può fare, che oggi è eccezionalmente condotta da Alessandro Milan, e io sono Carlo Gabardini, sono sempre io, però sì. Alessandro sostituisce Alessio Maurizio, che non riesce a tirar fuori la testa dalla zucca perché è ancora una festa di Halloween. Un vampiro l'avrà rapito. Esatto, vi ricordiamo che potete chiamarci all'800 24 00 24, ormai ho preso... Ma capito, capito, voglia, Carlo Gabardini, voglia di come dirlo. Entra, esce, lancia i numeri e chi lo ferma più adesso. Chiamateci per segnalarci il vostro monumento, che voi o un bene archeologico, una chiesa, quello che volete, fosse riqualificato, e ci raccontate per quale motivo volete che questo monumento venga riqualificato, e poi a insindacabile giudizio nostro noi sceglieremo la miglior storia e regaleremo una coppia di biglietti per la mostra del FAI a Villa Panza, a Stesis, all'origine delle sensazioni. Ah, oppure potete chiamarci per dirci sempre il nostro contest, il certo, tuo contest. Il copripiumone. Come si infila il piumone nel copripiumone? Esatto. Prima Cristina ci ha dato una spiegazione dettagliata di cui non abbiamo capito poco, il 10%, il 10%, il 10%, giusto, insomma, giusto. Ci vuole un letto, ci vogliono dei piedi del letto, ci vogliono un piumone e un copripiumone. E anche ha consigliato anche che bisogna essere almeno in due, quello, sì, e questo è facile. Quello lo dice sempre anche mia mamma, è in facile quattro così. Sarebbe meglio, certo. Ognuno tiene un angolo, certo. Uno in cinque e uno in fila. In cinque, però poi ci vuole un piumone gigante, esatto, per dormirci sotto in cinque. Comunque, caro Carlo, eccomi. La canzone Soldi c'entra con l'ospite che vogliamo introdurre. Si chiama Antonella Viola, è un'immunologa, è professoressa di patologia all'Università di Padova, e alla quale diamo il buongiorno. Buongiorno professoressa Viola, eccoci. Buongiorno. Lei. Professoressa Viola, quando si dice si può fare, è il classico, quando sai si parla di cervelli in fuga che sono andati a studiare all'estero, sono specializzati all'estero, eccetera. Ma la professoressa Viola a un certo punto della vita ha vinto come premio, non personalmente lei, ma per le sue ricerche, le sue investigazioni sulle molecole che sono a causa del cancro. Quanto ha vinto Viola? 2,5 milioni? Sì, 2,5 milioni di euro. 2,5 milioni. Complimenti. E mezzo di euro. E lei poteva decidere di destinarle, investirle in qualsiasi centro di ricerca in Europa. Ha scelto? Ho scelto di investirli a Padova. In Italia. Oh, quindi da cervello in fuga a cervello di ritorno. Visto che non ci sono i soldi per la ricerca, c'è il ricercatore che vince per i suoi studi. Che potrebbe essere una tecnica, mandiamo in giro i nostri ricercatori in fuga, che in realtà non sono in fuga, sono in giro a cercare soldi per riportarli in patria. Sono in missione per conto della Banca d'Italia. Allora, professoressa Viola, ci spieghi un po' di che premio si tratta, qual è la ricerca che le ha permesso di vincere questi soldi e perché la decisione di investirli da noi. Dunque, si tratta di un finanziamento che viene dato dall'Ufficio Europeo della Ricerca, si chiama ERC, viene dato in genere sulla base della produzione scientifica, quindi un po' un premio alla carriera, diciamo, e sulla base di un progetto, di una progettualità, un progetto che si presenta. Quindi c'è una prima valutazione del curriculum del candidato, se si supera questa prima fase, poi c'è una validazione del progetto. E lo scopo appunto è quello di finanziare un progetto che l'Europa chiama High Risk High Gain, cioè molto rischioso ma con un impatto importante sulla ricerca e sulla salute. E il progetto ha lo scopo di studiare in particolare il macrofago. Il macrofago è una cellula, è un globulo bianco, è la cellula del nostro corpo che riconosce i patogeni, cioè i batteri, i virus, quando questi ci attaccano. Lui li riconosce, li ingloba e li distrugge. E conoscere questo macrofago è importante perché da un lato dobbiamo cercare di potenziarlo quando siamo appunto attaccati da un batterio magari resistente agli antibiotici, e dall'altro però dobbiamo cercare di spegnerlo in casi di infiammazione cronica. È uno stato di infiammazione cronica in cui il macrofago non si comporta molto bene, e appunto l'obesità e il cancro. Quindi l'idea è cercare di modulare l'attività di queste cellule per ridurre nei pazienti obesi il rischio di cancro. Beh, insomma, questo è ipertecnico, è difficilissimo. È ipertecnico, però il sunto è questo. Sì. A me ha colpito molto, caro Carlo, perché quando ha vinto questi 2,5 milioni per questa ricerca, gli hanno detto puoi darlo in qualsiasi centro di eccellenza europeo. E sì, la professoressa ha scelto l'Italia perché dice è un modo po' per restituire ciò che l'Italia ha dato a me, no? È bella, esatto, questa cosa. Mi sembra bellissima. Ma mi scusi, io forse faccio una domanda stupida. Quello che mi chiedo, nel senso che lei ha proposto un progetto, diciamo, su carta, oppure sta facendo delle ricerche e a questo punto le danno dei soldi per continuare le sue ricerche? Le faccio questa domanda per un motivo specifico, nel senso che mi chiedo, non c'è cioè i soldi vengono dati a un ricercatore specifico, quindi non a un centro di ricerca, e poi lei decide di andare dove vuole, è così? Esatto, i soldi vengono dati ad un ricercatore specifico che può portarli liberamente in qualunque posto del mondo. Infatti questo premio tranne viene una usato banca, tranne una banca tranne una banca, ovviamente deve essere un centro di ricerca specializzato. Specifichiamo. Certo. L'idea di venire a Padova è proprio perché Padova è un'eccellenza scientifica, c'è una concentrazione di cervelli che è veramente difficile da trovare altrove, e anche appunto per restituire quello che la città mi ha dato, perché è la città in cui mi sono laureata, in cui ho cominciato a muovere i primi passi nella ricerca. È bellissimo. A parte che mi sembra stupenda anche l'affermazione a Padova c'è una concentrazione di cervelli incredibile, perché non lo sapevamo questo. Ci viene voglia di andare tutti a Padova anche a fare dell'arte, sì, anche a cercare un fidanzato. Per dire. Tra l'altro, però, professoressa Viola, le chiedo, visto che si dice in Italia spesso non ci sono i soldi per la ricerca, ecco, dal suo punto di vista, lei che ne ha trovati 2,5 milioni, ma forse non dovrebbe essere questa la soluzione per trovare i soldi per la ricerca, dovrebbe essere un qualcosa di più istituzionale, ci dovrebbe pensare lo Stato, come la mettiamo? Sì, purtroppo negli ultimi anni lo Stato è proprio mancato, i finanziamenti, i fondi nazionali per la ricerca praticamente non ci sono più, per cui c'è una gran parte di ricercatori che di fatto si trova nelle condizioni di non poter lavorare, e questo ha tagliato tutta la ricerca medio-alta, diciamo, quella molto molto alta riesce ad andare avanti tramite i finanziamenti europei, e a questo punto grazie Europa, perché altrimenti avremmo dovuto tutti chiudere i laboratori e trasferirci. Quindi grazie ai finanziamenti europei poi riusciamo ad andare avanti, ma solo ovviamente un po' il gota della ricerca all'eccellenza, tutta la fascia medio-alta, che è comunque importante, è tagliata fuori. No, comunque grazie all'Europa, ma grazie anche a lei, perché ha deciso poi poteva veramente dove poteva portarli, per esempio, dica la verità, ha avuto un attimo di titubanza, dice li porta a Padova o al centro europeo di? Sì, beh, ovviamente c'erano tentazioni tra America e anche alcuni posti in Germania, però ovviamente l'Italia, cioè Padova, secondo me è un posto giusto dove fare ricerca, e noi ricercatori di punta dobbiamo fare uno sforzo per promuovere la ricerca italiana. Beh, insomma, complimenti davvero. Complimenti, grazie, veramente. Professoressa. Grazie, grazie professoressa, grazie. Antonella Viola. Carlo, guarda cosa ti devo leggere. Ti devo leggere questa. Se la montagna non va a Maometto va alla montagna. Suggerisco la tecnica, questa qua. Raffaella, Carlo si infila nel copripiumino e stende il piumino sopra. Ma no, se si infila come fa a stendere? Tu sei nel copripiumino. E mi infilo dentro. E come fai a prendere il piumino e metterlo non lo sopra. So. In effetti, Raffaella, non abbiamo capito molto bene. Però attenzione, chiamaci Raffaella all'800 24 00 24. Ma lo ha fatto Emanuela dalla provincia di Vicenza, che ha una tecnica. Emanuela, buongiorno. Buongiorno. Oh, tutte donne, tra l'altro. Che certo, per certo. I piumoni. No, io devo dire che il brevetto è di mio marito. Ma proprio l'ha brevettato? Aspetta che ho gli appunti. L'ha brevettato, sì, però non vuole chiamare perché dice che non si riesce vergogna, a spiegarlo. Perché dice questi lavori li fanno le donne. Certo. Non riesce a spiegarlo. Ah, non riesce a spiegarlo. Allora, cioè, punto lui è la mente, lei è la parola. Prego. Allora abbiamo bisogno di un piumone, di un copripiumone e di una finestra. Ah. Una finestra. Di vabbè, una ce l'ho. Il piumone deve essere steso fuori. Okay? Attenzione. Il piumone. Allora, il copripiumone invece deve essere al rovescio. Al rovescio. Sì. Allora, voi dovete infilare le braccia all'interno. Sì. E agganciate con le mani gli angoli del copripiumone che del piumone, sì. Entrambi gli angoli, e poi dalla finestra sbattete. E il copripiumone cade sopra il piumone. Io un po' ho capito, me la sono figurata. Però posso dire che è una tecnica straordinaria, perché si rischia di finire giù dalla finestra, direi. Sì. Nel senso che o comunque il piumone giù dalla finestra. Fino adesso avevo tutte delle tecniche dove al massimo. Avere un piumone che non pesi troppo, perché altrimenti sì, il rischio è alto. Sì, esatto. Anche certo. Beh, certo, perché tenere 20 kg di piumone. Certo, poi abito al sesto piano, non vorrei che va giù, poi creo degli incidenti stradali. Comunque ci però questa non ci avevi pensato. No, Far penzolare il piumone dalla finestra. Me l'aveva accennato una mia amica, ma mi sembrava assolutamente un tentativo per eliminarmi. E invece vedi, a Vicenza l'hanno brevettato. Esatto, adesso ci proverò. Emanuela, faccia i complimenti al marito, dica di vincere la timidezza, ci può chiamare quando vuole. E la ringraziamo, Emanuela, grazie mille. Però questa tecnica non è male. Però la finestra aggiunge del rischio, direi, della pericolosità. Sì, soprattutto però, non insomma, tutti hanno una finestra in camera. Certo, c'è chi vive nei bunker. C'è chi ha il piano terra. Come fa il piano terra a strisciare tutto il piumone? Giusto, effettivamente. Che schifo. Dai, è un po' come il russo. Come il russo sul pavimento. È vero. Se sei al piano terra, se sei in un sotterraneo. Questa è una buona domanda. In effetti. Ci vuole una tecnica migliore. Ci vuole una tecnica per tutti. Per tutti, una tecnica democratica. Chiediamo, telefonateci all'800 24 00 24. Aspettiamo le vostre chiamate. Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questo è Si può fare. Chiamateci all'800 24 00 24, che oggi è praticamente il mio mantra, sempre direi. Sempre meglio sto cavolo. Ma sentite con che piglio è entrato adesso, proprio anche Si può fare, grandissimo. Se mi fai complimenti mi emoziono, che io sono sempre stagista, anzi ormai sono giornalista in prova, direi. Stagista in prova forse. Comunque in prova. Perché in prova piumone. Esatto, poi oggi non c'è il mio vero capo, quindi così mi sono lasciato un po' andare, spero non troppo. Va bene. Allora, intanto noi diamo la parola a Romano, che ci chiama dalla provincia di Milano. Romano, buongiorno. Buongiorno, siete fantastici come vostra radio. Grazie. Seguo dal primo giorno. Cioè, 4 ottobre 99. Esatto, quando ho visto gli annunci che c'era la radio, l'ho presa e solo quello. Ho abolito televisione. Radio 24. Radio 24. Radio RDS. Pensavo che stesse parlando della trasmissione Si può fare, quella condotta da Milan e Gabardini. Dicevo, guardi, vi ascolto dalla prima puntata e oggi la prima puntata. La radio in totale, in toto. No, straordinario. Romano, dica allora, perché ci ha chiamato? Io, e siete più rapidi delle risposte che mi danno via mail o per lettera. Ho mandato nel 2012, ho visitato la Reggia di Venere Reale, che è bellissima, stupenda. Quando sono uscito, ho fatto il Borgo Antico, sono scappato dalla disperazione. Un degrado, tutto rovinato, i vetri rotti, i cortili che non si poteva entrare dalla sporcizia che c'era, eccetera. Ho mandato subito, avevo fatto la visita col touring, sono un touring da 50 anni, e sono andato con loro a fare la visita. Ho mandato subito una segnalazione, dal 2012 nessuna risposta. A chi ha mandato la segnalazione? Al touring, certo. No, la stessa coppia l'ho mandata al FAI, 2012, nessuna risposta. Mi sono incavolato, l'ho mandato a Calabresi, alla stampa, che è di Torino, nessuna risposta. Dico, ma è possibile? Parlavate prima della gente che viene in Italia a vedere le nostre bellezze, uno schifo simile, uscendo da Via Reale, fare 100 metri al Borgo Antico, sono scappato dall'ispirazione. E volevo sapere se provvedevano, facevano qualcosa o ha messo a posto. Nessuna risposta. Direi che comunque si candida assolutamente per vincere, perlomeno per vincere i due biglietti per la mostra del FAI, che così ci va a parlare direttamente alla mostra, invece di aver, visto che ha mandato giustamente la segnalazione al FAI. Sono qua e esatto, non mi potete non esatto. Mi come minimo la facciamo andare gratis a vedere la mostra. Allora, ci sono tantissime segnalazioni sul copripiumone, ma tra poco le riprenderemo, perché adesso dobbiamo fare una parentesi e parlare di una cosa molto molto seria. È una campagna che ha anche un hashtag, tu sei pratico di Twitter. Assolutamente. E la campagna ha questo hashtag che è Apriamo gli occhi, tutto attaccato. Una campagna di lotta alla cecità infantile che è portata avanti da CBM Italia, ed è una campagna che si opera in tutto il mondo. Ha una testimonial d'eccezione che è qui ai nostri microfoni, è Filippa Lagerbach, che salutiamo. Buongiorno Filippa e benvenuta. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Intanto raccontaci un po' di questa iniziativa, Apriamo gli occhi, di che cosa si tratta? Allora, CBM lavora in tutto il mondo per combattere la cecità evitabile. Cosa vuol dire? Qui da noi è facile andare a fare un controllo della vista, farsi operare per una cataratta, insomma, avere un paio di occhiali. Invece nei paesi più poveri non hanno questa disponibilità, non hanno questa possibilità, e quindi delle infezioni oppure non avere un paio di occhiali può portare a perdere la vista. E quindi un bambino cieco, un bambino su due, muore entro un anno che perde la vista in un paese povero, perché non vede, non può curarsi, non può, insomma, è esposto ai pericoli, può essere sottoposto ai abusi, insomma è molto pericoloso, e quindi perdere la vista vuol dire praticamente essere destinati all'emarginazione, addirittura alla morte. Ma tra l'altro, quindi, io ho visto ci sono tanti servizi di questi medici a CBM, è una cosa straordinaria, Carlo e Filippa, cioè partono con dei laboratori mobili e fanno delle operazioni intervenendo in maniera molto pratica, in maniera molto rapida, molto veloce, sì, dando la possibilità appunto a migliaia di bambini di vedere, che vuol dire vivere, appunto, sì, come ci vuol dire vivere, vuol dire potersi costruire un futuro, avere una possibilità di sopravvivere. Io sono stata in Uganda con CBM, ho visto come lavorano, come operano, sono stata nella clinica mobile, sono stata all'ospedale, ho portato addirittura per mano un piccolo ragazzino di 7 anni a fare questa operazione, e lui era cieco, aveva la cataratta bilaterale, quindi non poteva attendere la scuola, imparare e crearsi un futuro. Insieme abbiamo trovato la luce, lui dopo un giorno, dopo l'operazione, ha tolto le bende e iniziato a vedere. Questa è stata un'emozione incredibile, credo per ogni persona, per ogni mamma, poter vedere la gioia di questa piccola creatura che riusciva poi a vedere. E abbiamo seguito poi il suo percorso, è tornato a scuola, è gioioso, insomma, vede un piccolo futuro. Abbiamo ridato la luce a lui, come possiamo ridare la luce a tanti altri bambini nel mondo. E quindi basta poco da noi, un piccolo sforzo. Questo è l'ultimo giorno. Ma dobbiamo, esatto, dobbiamo ricordare il numoro di telefono anche al quale mandare. Oggi è un giorno fondamentale, è l'ultimo giorno per poter mandare. Cioè, allora, questa campagna era dal 4 ottobre al 1 novembre, giusto? E sì, con un sms al numero 45594. Lo ridico, 45594, potete mandare un sms per donare 2 euro che contribuiranno appunto a sostenere questi progetti di lotta alla cecità di CBM in 14 paesi. 2 euro che faranno veramente una grandissima differenza, io ho visto con i miei occhi, e insieme possiamo veramente aprire gli occhi. Beh, grazie davvero mille. La Lagerbach, sono cose anche che fanno molto onore a persone che hanno una visibilità pubblica e che giustamente mettono a disposizione, a titolo assolutamente gratuito ovviamente, ma questo neanche a dirlo, la propria immagine, la propria possibilità di sensibilizzare l'opinione pubblica per delle azioni del genere. Grazie Filippo. Grazie mille. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, ricordiamo ancora 45594, ecco, oppure mandate. 45594. Mandate un sms, la campagna Apriamo gli occhi, per aiutare CBM Italia a dare tanta speranza, tanto futuro a molte persone nel mondo. Esatto, ricordo anche il numero dei nostri sms, perché mi dicono giustamente che non lo ricordiamo mai. Il numero del nostro sms è 349 339-238-6666. Ma sai tutti i numeri. Comunque, Raffaella ci scrive: siete proprio uomini. Senso sì. pratico zero. Esatto. Però mi sembra divertente anche chi scrive: piumone, la tecnica è la stessa di come si raccolgono i bisogni del cane sì. con il sacchetto. Sì. Io il migliore non l'ho questo. Capito. Beh, vabbè, insomma, il migliore però è questo. Tu dicevi che devi mettere il piumone perché tra un po' se no hai freddo. Certo. Sandro suggerisce che con una brasiliana dentro non avrai più problema nel freddo. È vero, ecco. giustissimo. Anche questa potrebbe essere una tecnica un pochino, come dire, un po' bizzarra, un po' qualcuno la potrebbe anche criticare, però... Allora spero che ci chiami una brasiliana o un brasiliano da mettere nel piumone. No, però ci chiamano sempre le donne, tutte le donne. Francesca da Roma, buongiorno. Perché chissà chi lo mette il piumone. Tutte donne. Cara Francesca, lei come allora, fa? Allora, immaginate, chiudete gli occhi e avete davanti a voi un piumone, un copripiumone. Il copripiumone lo stendete sul letto, lato aperto verso i piedi, come al solito. Sì, bene. Poi avete il piumone, lo stendete sul letto nel verso giusto, perché sennò una parte è più larga e l'altra è più lunga, poi non vi ci entra. Ah, perché c'è anche un verso, anche il piumone. Sì, è più stretto del copripiumone. Va bene. Poi il lato destro del piumone, guardando il letto dai piedi verso la testa, lo piegate fino a metà sopra il copripiumone. Sì. Il lato sinistro stessa cosa, con una ricetta di cucina, lo piegate a metà, ci siamo? Lo vedete? Sì. Lo piegate a metà sopra l'altra parte, quindi diventa un terzo. Dalla parte della testa, diciamo, dei cuscini, lo arrotolate, qui facciamo il sistema in voltino che dicevate voi prima. Signora, io mi sono... non si arrabbi, non mi sgridi, la prego, ma io mi sono perso. Francesca lo dice come una che ne ha piegati e ne ha messi 8.000 in una vita. E quindi, Francesca, ma lei si rende conto che noi siamo all'ABC e lei... Cioè, mette un piumone in due secondi. È veramente, la sua è già una tecnica olimpica, mi sembra, troppo difficile. Vabbè, comunque... Francesca, comunque, come prosegue questo tentativo inutile da parte nostra di mettere? Allora, siamo a un piumone ridotto a un terzo che sta in mezzo al letto per lungo? Diciamo di sì. Allora, lo prendete e lo arrotolate dalla testa verso i piedi. Avete un sacco a pelo. Poi ci si infila nel sacco a pelo e è fatta. Buonanotte. Si alza il fondo del letto, si alza il fondo del piumone e si straia giù. Se no mi chiamate e vengo io per fatto. Francesca, guardi che secondo signora, me io adesso mi faccio dare dalla redazione il suo numero di telefono e la chiamerò, credo, tutte le prossime notti. Vediamo però, grazie Francesca. Grazie, vorrei capire se in Valtellina, nella mia amata Valtellina, dove ho trascorso parte dell'infanzia, a Piateda e poi a Tresivio, Paola da Sondrio, buongiorno, sono nomi che le ricordano qualcosa, o i pizzoccheri di Chiuro. Mamma mia, lo so. Tutto qui oggi c'è un sole meraviglioso dei colori fantastici. Saluti la mia Tresivio. Venite in Valtellina, va bene. Allora, no, io ho una tecnica semplicissima. Ah, sempre per il copripiumone. Allora, sì, poi certo. Se si fa in due meno. Allora, bisogna rovesciare il copripiumone. E fin qui abbiamo capito che è una tecnica molto utilizzata. E stenderlo sul letto, già rovesciato. Ecco, poi si mette sopra il piumone, quindi già bello aperto e tutto, e si arrotola un lembo del copripiumone dal fondo, lo si fa su tutto fino in cima. A questo punto si rovescia l'angolo e si sbatte come un lenzuolo il piumone. Questa signora, tecnica del prendere e sbattere... Io l'ho visto in un video, perché voi la fate semplice. A questo punto si prende l'angolo, è lì il momento in cui si prende l'angolo e si inizia a smadonnare, perché è impossibile. Io ripeto, è tutta la settimana che più o meno dalle 22 alle 24 faccio dei tentativi con il piumone e poi alla fine vado a dormire con una coperta di lana. È così. Vabbè, io infatti continuo a suggerirti la trapunta e il lenzuolo. Certo, lo so. Qual è il problema della trapunta e il lenzuolo? Cioè, mi sembra che vi state evitando... È che io ho il piumone, non ho la trapunta e il lenzuolo. Ho capito, ma voglio dire, ma ti eviti un sacco di problemi con la trapunta e il lenzuolo. Lo so, ma insomma, piace molto. Anche poi io prima gli ho detto, ma ignorante, non ho mai messo un copripiumone, ma non è come mettere il cuscino nella federa, solo più lungo. Ho capito, ma le dimensioni contano, come si suol dire. Sì, va bene, andiamo al traffico, perché tra un po' mi sa che entrerà in studio una persona che sa tutto dell'economia, dei numeri, magari ci aiuterà anche sul copripiumone. Assolutamente, certo. a capire come si fa, tra poco, dopo il traffico. porta ancora il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. E allora, questa è l'ultima parte di Si può fare con Alessandro Milan, che finisce di poco, tra poco, di farla abusivo. E Carlo Gabardini. Carlo Gabardini, che non è per nulla abusivo. No, esatto. Non mi sono autosostituito, invece tu sostituisci giustamente Alessio Maurizi. Esatto, ma domani dormirò, lo so, me lo sento. La vera domanda è questa: spero, e se non c'è Alessio Maurizi, Chi mi danno, diciamo, chi mi danno come badante? Ma attenzione, è un momento importante perché intanto alle 10, sapete, oggi parte il nuovo palinsesto di Radio 24 per quel che riguarda il weekend nello specifico, e alle 10 ci sarà Oscar Giannino, che insieme a Carlo Alberto Carnevale Maffè condurrà I Conti della Belva. Eccolo qui, la Belva, Oscar, ma sei tu la Belva? Infatti, io sono emozionatissimo. È anche la mia prima volta che sono in studio con Oscar Giannino. Però, quindi, insomma, sono proprio Oscar, emozionato. Tra poco ci racconterai tutto di quello che farete dalle 10. Ma prima io e Carlo abbiamo lanciato un contest molto importante. E cioè, tu che sai tutto, come si fa a infilare la tecnica di un piumino in un copripiumino in maniera molto quando si è da veloce? Soli? Quando, cioè, come soli? Si infila il piumino dentro il copripiumino? Allora, io rispondo in base alla mia esperienza pratica. Certo. Nel senso che i miei piumini a casa sono rigorosamente tutti IKEA. Se volete vi dico, fattore 2 di protezione 99 euro, fattore 6 49. E sono già IKEA che ho io hanno questa particolarità, che si rimettono nel contenitore del copripiumino da soli. No, però devo dire, io da solo ci riesco, il che vuol dire chiunque. Ma devi spiegarci come, però. Molto semplice, basta ripiegarli, sì. E però per appiattire rispetto alla voluminosità. Sì. Io ho una cooperazione, perché ho 5 gatti che mentre li copro si mettono sopra. E quindi plaf plaf plaf, e io alla fine ce l'ho praticamente. È un'immagine quasi disneyana, no, direi. Cioè, Oscar dire Giannino gatti, che in realtà infila il corpo piumone insieme a 5 gatti, ma che ubbidiscono. I piumoni a casa mia, in realtà, più che per me e mia moglie, sono fatti per i gatti. Davvero, è quello là. Visto che invece sai tutto e parlerete, ci dite anche di che cosa, di come, di con quale taglio dell'economia, dei conti della Belva. Secondo te, facendo anche due conti, io mi sto interrogando dalle 7 di questa mattina quando ho preso i giornali, perché la figlia di Oscar Luigi Scalfaro ha la scorta ancora oggi, come scrive il Quotidiano Nazionale a pagina 2? Non ne esco da questa domanda, perché ci costerà. Insomma, è bello che ognuno ha le proprie idiosincrasie. Allora, se c'è una risposta tagliente, sì, però... Sì. Perché tutta la questione su cui ruota l'interrogatorio del capo dello Stato, sì, la trattativa, eccetera, sì, deriva dal fatto che all'epoca, 92-93, con suo ministro, a cambiare il capo del DAP e a dare l'input per dire non rinnovate il 41 bis fu proprio il padre della signora Marianne. E quindi la figlia. Capito? Oscar Luigi Scalfaro, l'intoccabile simbolo della virtù, eccetera, eccetera, ebbe un ruolo esattamente in quelle vicende. Altro che napoletano. Vabbè, questo è come sempre. Vedete, voglio dire, io dico sempre: sono lo stupido. Oggi devo dire che sono lo stupido dei quattro. Perché questo viene dalla lettura delle carte. Non mi permetterei altrimenti. Sarebbe meglio. Una maglia. Sei andato da una maga, no, diciamo. Però qui si parla di tarocchi proprio. Chiedo scusa. Però prima di dirci, sentiamo Sonia dalla provincia di Padova. Oh, tutte donne che ci chiamano. Ma questo è perché Alino Sonia. No, perché il piumotto. Sonia. Eccola. Sì. Buongiorno. La tecnica. Stamattina mi avete dato una soddisfazione grande, perché sembrava fossi l'unica a litigare col piumone. No, non è vero. Guardi, io sono 10 giorni che non faccio altro. Ecco, allora, lo stendo sopra il letto, sì, mi infilo dentro col piumone, ci metto agli angoli due molette. Le mollette. Tengo fermo agli angoli e poi scendo giù dalla parte. È l'unica tecnica. Ma che lei dall'altra parte, però vuol dire che... Ma lei è Nadia Comaneci ha un copripiumone con un'entrata e un'uscita, quindi è un tunnel più che un copripiumone. No, è mi infilo dove verso la, cioè, la parte chiusa, ci infilo i due angoli e ci metto le molette in maniera che stiano fermi. Poi tiro giù piano piano, è tipo un po' burrata proprio. Il burrito, il burrito. È la tecnica del burrito, no? Però la tecnica del burrito è quello dove si arrotola. Qua il suo invece è la tecnica dove ci si butta dentro a pesce. Respirare non è facile. Comunque, Sonia, la ringraziamo. Ci ha dato una storia della tecnica. Dobbiamo dire chi ha vinto il premio. Allora, quello chi, di Milano chi, aveva vinto, chi, no? Chi vince? Romano vince il premio, vince i due biglietti. Esatto, per la mostra del Fai a Villa Panza. E quindi verrà poi contattato dalla nostra redazione, giusto? Esatto. Perfetto, quindi l'abbiamo detto. E a questo punto Oscar, tra poco inebriaci Oscar alle 10. Di che allora, parlate? In realtà sarà una specie di senza esagerare, però piccolo alto gradimento sull'economia, nel senso che per esempio abbiamo questo maestro che i nostri ascoltatori in una galleria di personaggi inizieranno a conoscere, questo il maestro Alberto Parcobuoi, che spiegherà che è il suo vero nome o è un nome di fantasia? Detto, tutti i personaggi che i nostri ascoltatori impareranno a conoscere, perché questo Alberto Parcobuoi gli spiegherà ogni volta da cosa devono guardarsi per non prendersela in saccoccia sui loro soldi. Poi, per esempio, stiamo aspettando, ci sarà un intervento di Mario Draghi. Quindi questo vale la pena forse oggi, anche dopo le 10. Di sentirlo. Poi Mario c'è direttamente anche dalla BCE. E mio nella veste ufficiale. No, i nostri ascoltatori potranno adesso, naturalmente. La certezza ce l'avremo in diretta. Vabbè. Però quest'altra cosa, Mario che Draghi ci racconterà però alcune cose. C'è Ennio Doris, quello vero di Mediolanum, perché il problema è che qui, non so se avete capito in ascolto, ma Banca d'Italia non sorveglia più sui vostri soldi, finito tutto, ecco. Decide tutto. Giusto l'Europa, quindi così potete passare un weekend sereno. Esatto. Meglio saperlo, quindi che cosa vi aspetta, cari mettete ragazzi? Mettete i soldi nel corpo in piumone, direi. Esatto. Poi faremo parlare dell'economia di cui non capiscono niente i grandi. Abbiamo deciso di far parlare i bambini, quindi interroghiamo dei bambini assolutamente impreparati, noi diciamo che cosa gli chiediamo e ci riveleranno delle cose incredibili su questo. Chi guadagna di più, cosa vuol dire lavorare, che lavoro vuoi fare, a cosa servono i soldi, risposta a fare i debiti per esempio. Ma io vengo a fare il bambino fare nella tua trasmissione, lo sai? No, questo è un bambino vero, quello che vabbè, ma anche io anche ho l'età mentale di 9 anni, quindi con Carlo Alberto Caravale Maffè, che è il mio compare in questa trasmissione, ci divertiremo a prenderci in giro, ma però a parlare seriamente, però con molta ironia, invitando telefonate. Il numero è sempre quello, lo possiamo già dare: 800 24 00 24. Ma neanche farlo apposta, è venuta proprio così. Ma guardate che tra pochi minuti, perché noi chiudiamo tra qui pochissimo. E dopo il giornale radio c'è allora Oscar Geni. Conti, com'è il verso della Belva? Ragazzi, attenti all'inno, perché l'inno dovete stare attento, perché l'inno ho almeno scritto io. Devo chiudere. Io non vi rivedo più. Dobbiamo salutare anche Alessio Maurizio, che speriamo che domani torni fra di noi. Grazie a tutti. Grazie Alessandro Milan. A tutti. A tra poco. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.